cos'è quest'estate di Deborah Rosciani. È mercoledì 31 agosto, buongiorno a tutti e dunque eccoci di nuovo insieme per fare un punto della situazione di prima mattina sui temi che stanno animando in questi giorni la cronaca economica, politica e non solo. Di che cosa parleremo questa mattina nei nostri approfondimenti? Allora, intanto parleremo di un tema molto importante, cioè il rischio paralisi in alcuni tribunali italiani. Due denunce fortissime arrivate nei giorni scorsi da Torino e da Milano che naturalmente sono sul tavolo del ministro della giustizia Orlando. Proprio peraltro ieri dal governo è arrivato un nuovo provvedimento sull'efficientamento della giustizia. Parleremo di tutto questo questa mattina per fare un po' il punto della situazione che torna puntualmente alla ribalta della cronaca giudiziaria, e faremo un punto sia sull'entità di questi allarmi ma anche sui provvedimenti appunto varati ieri per capire se potranno aiutare almeno nel breve termine un po' ad allentare questa tensione su questo fronte. Poi, per quello che riguarda gli argomenti della seconda parte, sul fronte terremoto ha suscitato grande attenzione il video che è stato diffuso da Fiorello nei giorni scorsi, che parla di tutte quelle iniziative di solidarietà che abbiamo avuto modo appunto di vedere tante volte, purtroppo tragicamente se vogliamo anche aggiungere, in questi ultimi anni all'indomani di queste tragedie. Tanti artisti che ci hanno messo la faccia partecipando a concerti, organizzando iniziative di solidarietà e di raccolta fondi. Lui però ha detto: ma forse è meglio non partecipare ad iniziative di questo tipo se proprio si vuole fare solidarietà, fare da sé. Naturalmente tutti hanno espresso la loro considerazione, la loro impressione su questo tema, ma intanto la macchina della solidarietà sul fronte artisti si è rimessa in moto anche questa volta. Ci sono tante iniziative pronte ad essere organizzate. Il tema è: si sa poi se i soldi vengono effettivamente utilizzati? Si sa, c'è una grande attenzione in questo momento, un grande check-up anche, viene tracciato appunto il percorso del denaro raccolto, e noi vi racconteremo effettivamente che cosa è successo per esempio con le ultime iniziative. Nell'ultima parte invece ci dedicheremo ad un fenomeno letterario italiano che ha dell'incredibile, quello di Elena Ferrante, l'autrice della tetralogia dell'Amica geniale. Perché ne parliamo questa mattina? Oggi esce il suo ultimo lavoro, ma soprattutto perché c'è un successo americano che ha dell'incredibile. È una delle autrici preferite da tante star di Hollywood e non solo, per cui anche di questo parleremo quest'oggi. Per tutti questi argomenti avete come sempre l'opportunità di intervenire in diretta chiamandoci all'800 24 00 24 o scrivendoci al 349 238 6666. Noi stiamo cercando di colmare i vuoti di organico in tutto il sistema giustizia del nostro paese. Abbiamo terminato la mobilità, stiamo lavorando per dare più personale, abbiamo molto aumentato le risorse per l'informatizzazione. Basta pensare che lo scorso anno la cifra stanziata era 70 milioni di euro, quest'anno sono 150. Il ministro Orlando queste dichiarazioni le rilasciava a giugno. Nel frattempo che cosa è successo? Che sono dichiarazioni che non hanno convinto più di tanto i due numeri uno, passatemi il termine, di due tribunali molto importanti italiani, Armando Spataro da Torino e Francesco Greco da Milano. La procura di Milano ha raggiunto un punto limite sul fronte del tasso di scopertura degli organici che potrebbe far declinare questo ufficio. Lo ha lanciato questo allarme proprio due giorni fa il procuratore capo di Milano Francesco Greco. In questa intervista pubblicata dal Corriere della Sera, il magistrato, che è lo storico PM di Mani Pulite, lo ricorderete bene, approdato al vertice della procura milanese lo scorso maggio, denuncia una scopertura del 50% fra i procuratori aggiunti, del 15% fra i sostituti e, secondo dati più recenti, di circa il 30-33% nel personale amministrativo. È un problema soprattutto per una realtà come quella di Milano, che è il motore economico italiano, dice Greco, e che vede operare sul suo territorio più imprese che in Baviera o Barcellona. Il suo allarme, ve lo dicevo, si aggiunge a quello che a fine giugno, evidenziando le stesse forti problematiche, aveva lanciato il procuratore di Torino Armando Spataro in una lettera inviata direttamente al Guardasigilli. Una situazione gravissima, aveva detto, che potrebbe portare alla procura di Torino, ma anche in altri uffici giudiziari italiani, perfino a bloccare o a limitare alcuni servizi come quelli destinati al pubblico. La causa: l'invecchiamento progressivo, la cronica mancanza del personale amministrativo. I tribunali che versano in queste condizioni sono moltissimi. In Italia faremo oggi, se possibile, una fotografia della situazione, e in questo contesto proprio ieri, come vi dicevo, è arrivato il provvedimento del Consiglio dei Ministri con le misure sull'efficientamento della giustizia. Tanti temi da discutere questa mattina con il collega del Sole 24 Ore, Alessandro Galimberti. Buongiorno Alessandro. Buongiorno Deborah, a te e agli ascoltatori. Buongiorno a Cosimo Maria Ferri, sottosegretario alla giustizia. Buongiorno sottosegretario, grazie. Buongiorno anche a lei e a tutti coloro che ci ascoltano. E buongiorno. Poi Armando Spataro, procuratore capo di Torino. Buongiorno procuratore, benvenuto, grazie. Buongiorno agli ascoltatori a lei. Alessandro, vorrei partire con te. Milano, Torino, ma insomma in precedenza anche Napoli, Bari. Segnalazioni queste che ogni anno, peraltro per fare come dire una sintesi della situazione, vengono anche fatte e vengono evidenziate molto bene in occasione alla fine di gennaio dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Ci spieghi un po' qual è la fotografia dei tribunali italiani, cosa te ne pare di questi allarmi estivi lanciati dai procuratori? I numeri dicono che hanno ragione, quali sono oggi le situazioni più problematiche? Secondo me conviene partire dall'output, cioè dal prodotto della giustizia, del sistema giustizia, che continua a essere in crisi, lo dicono i numeri, nonostante tutti gli sforzi fatti dai governi che si sono succeduti negli ultimi anni. Noi abbiamo un arretrato fotografato ad oggi dallo stesso Ministero della Giustizia, che nel processo civile parla ancora di quasi 3,5 milioni di fascicoli aperti e non risolti, e nella giustizia penale circa la metà, complessivamente sono più di 5 milioni di fascicoli aperti. 1,100,000 di questi fascicoli sono a rischio della legge Pinto, cioè di dover risarcire le parti coinvolte perché il processo va oltre i limiti di legge per la durata. Quindi il dato di partenza è questo, il sistema è profondamente in crisi. E quali sono le cause? C'è una parte sicuramente segnalata anche dagli appelli di cui parlavi prima, che riguarda le insufficienze di organico dei magistrati, ma secondo me il problema da questo punto di vista è molto minore rispetto a quello segnalato dallo stesso procuratore greco per quanto riguarda il personale amministrativo. Le cancellerie dei tribunali negli ultimi 20 anni si sono progressivamente desertificate e purtroppo non sto eccedendo con l'uso dell'italiano, perché da 20 anni è bloccato il turnover delle cancellerie. Quindi questo vuol dire che i servizi interni ai tribunali sono in molti casi fanno fatica ad essere proprio svolti nelle condizioni minime necessarie per il funzionamento della giustizia. A questo proposito basta anche fare riferimento all'inchiesta degli ultimi 2 giorni del Corriere della Sera, esatto, che ha svelato attraverso i bilanci dell'Ordine degli Avvocati quale sia stato il contributo privato al funzionamento di un tribunale importante qual è quello di Milano. Sono diversi milioni di euro che l'Ordine degli Avvocati ha devoluto al funzionamento della giustizia del più importante tribunale italiano, senza i quali probabilmente l'attività del Tribunale di Milano si sarebbe fermata da molto tempo. I mali sono profondi della giustizia italiana, perché purtroppo c'è stato un approccio culturale che relativamente al processo è sempre stato sbagliato. Certo. Cioè chi ha fatto l'avvocato si ricorda che chi fa l'avvocato si ricorda che il proverbio iniziale è causa che pende, causa che rende, e non è vero che sia così dimenticato. Nella giustizia penale sappiamo i problemi che hanno coinvolto politica e magistratura negli ultimi 20 anni, e quindi lì probabilmente l'approccio più che culturale è stato un tentativo di ripristinare un equilibrio tra politica e giustizia. Chi è la vittima di tutto questo? La giustizia. Chi patisce le conseguenze? Non solo i cittadini, che è sicuramente un aspetto fondamentale in una repubblica, ma tutto il sistema, naturalmente, che si blocca. Il sistema delle imprese anche. Se l'Italia è poco competitiva a livello mondiale, la causa principale certamente non sono le imprese, ma è il sistema giustizia che allontana gli investitori. Esatto, guarda, ieri l'abbiamo presa alla larga, ma parlando della modalità di svolgimento in questo periodo del dibattito delle trattative sulle TTIP, proprio questo aspetto era emerso, degli investitori internazionali che in Italia non arrivano, anche per le ragioni che stavi spiegando poco fa. Peraltro il ministro Orlando ha risposto sempre dalle pagine del Corriere della Sera, dicendo che in realtà questo arretrato è stato smaltito appunto negli ultimi anni. Tu parlavi di questi quasi 4 milioni di fascicoli pendenti nel civile, lui dice che siamo andati sotto questa cifra, quindi parlando di un trend positivo. Però a parte questo, poi dal punto di vista del Ministero della Giustizia sarà il sottosegretario a dire la sua. Ti volevo anche chiedere, Alessandro, se il pacchetto varato ieri dal governo il provvedimento Orlando, appunto, che prevede, per esempio, poi ci sono delle tecnicalità che dovremmo un pochino provare a spiegare ai nostri ascoltatori, perché non è tutto un pacchetto semplice. Prevede un anno di servizio in più, per esempio, per i giudici delle magistrature apicali, ma non solo, il blocco, leggo dal tuo pezzo di stamattina, dei distacchi del personale della giustizia, e non solo, lo hanno appunto ribattezzato il decreto salva apicali. Ha l'obiettivo anche in qualche maniera di risistemare un po' la situazione di emergenza di cui stiamo parlando questa mattina, o è qualcosa che va in una direzione diversa? No, in piccola parte sì, però anche qua va a cercare di intervenire su un'anomalia tutta italiana, e cioè semplicemente è un decreto mirato sulla Cassazione che soffre in questo momento di un problema cronico e inspiegabile. In Italia la Corte di Cassazione pronuncia quasi 100.000 sentenze all'anno. Veramente una cosa incomprensibile, perché la Corte di Cassazione deve fare controllo di legittimità qualora le parti lo richiedano, o esprimere i principi di diritto. Ora, è ragionevole che arrivino 100.000 fascicoli tra il civile e il penale ogni anno in Cassazione? C'è un problema di funzionamento del sistema o di distorsione dell'uso del sistema? Comunque ieri il governo ha dato un anno in più ai magistrati di Cassazione, anche qui per rimediare un errore commesso 2 anni fa, quando venne abbassata da 75 a 70 anni repentinamente l'età di pensionamento dei magistrati. I magistrati più anziani generalmente lavorano più alto in gerarchia, sono quasi tutti, cioè una buona percentuale in Cassazione. Quel provvedimento di 2 anni fa, sul quale lo stesso ministro Orlando era stato scettico, ma Renzi tirò dritto, di abbassamento di 5 anni, ha determinato uno svuotamento anche della Cassazione, un ufficio sotto pressione e che era stato anche svuotato di giudici. Quindi il governo negli ultimi 2 anni, con 3 proroghe, questa è la terza, sta cercando di far funzionare la Cassazione, ma anche lì il problema, mi ripeto, è alla base. È ragionevole che la Cassazione faccia 100.000 sentenze all'anno, quando probabilmente la Corte francese non arriva a 1.200 ogni anno. Dopodiché c'è un aspetto ulteriormente problematico, ma qui allargheremo troppo il campo, che è nel decreto di ieri, che riguarda il funzionamento del processo amministrativo telematico, cioè trasformare il processo di carta con deposito di atti, valigie, trasferimenti e quant'altro, archivi, materiali enormi nei tribunali, trasformare in un processo fatto con posta elettronica. Ecco, decreto d'urgenza ieri del Ministero. È 2 anni che questo processo deve essere varato, ma continua a subire proroghe. Perché? Perché non ci sono gli standard di funzionamento del sistema informatico. Ma come? È 2 anni che la giustizia civile faticosamente è arrivata a funzionare esclusivamente in digitale, eppure il governo, suo malgrado, è stato costretto ad adottare 3 proroghe per far entrare in vigore. Un'interpretazione un po' curiosa del concetto di urgenza, di cui chiederemo conto fra un attimo al sottosegretario Ferri. Allora, prima di continuare la nostra conversazione con gli altri interlocutori che abbiamo coinvolto questa mattina, ci ha raggiunto anche l'avvocato Remo Danovi, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano. Sentiamo un po' di pubblicità e poi riprendo con Armando Spataro, tra poco. Ma cos'è quest'estate? Vedo che il tema emergenza tribunali in Italia sta anche molto coinvolgendo i nostri ascoltatori, ognuno dei quali ha la sua ricetta per la riorganizzazione, insomma, delle procure dei tribunali d'Italia. Mi fa piacere che siate così preparati sull'argomento, ma insomma 9 pagine di lettera con cui in giugno il procuratore di Torino Armando Spataro ha inviato, appunto, una lettera che il procuratore Spataro ha inviato al ministro della giustizia Andrea Orlando, ma non solo, anche al vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Giovanni Legnini, ai suoi colleghi capi di altrettante procure distrettuali, all'Ordine, alla Camera Penale di Torino, una lettera molto articolata, una vera e propria denuncia, ma anche una lettera con delle proposte. Ma quello che ci ha colpito, procuratore Spataro, è che lei l'abbia anche corredata di una nutritissima rassegna stampa con tutte le emergenze d'Italia. Insomma, voleva un po' mandare di traverso le ferie ad Orlando. Qual è stato l'obiettivo della sua iniziativa estiva, e come mai è possibile che ancora una volta, per farsi ascoltare da un ministro, una figura autorevole come la sua debba scrivere una lettera e affidarla ad un importante quotidiano? So che Alessandro Galimberti dice per fortuna che fanno anche questo, però a noi sembra in ogni caso ancora qualcosa di piuttosto originale. Procuratore Spataro. Chiedo scusa, originale con questo, perdoni, perché sono in prego, come forse è stato detto. Io ho inviato una lettera all'autorità istituzionale nazionali, non ho investito i quotidiani in alcun modo. E l'ho fatto, pur stimando il ministro Orlando, per una semplice ragione, perché qui ci troviamo di fronte a gravi carenze e responsabilità nell'azione del governo. Spiego perché. Perché la richiesta non è la richiesta di un favore, ma è la richiesta dell'adempimento di un dovere che è scritto nell'articolo 110 della Costituzione. Due punti: spettano al ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Allora, se in tutta Italia i dirigenti degli uffici di tutte le procure, ma anche di un alto numero di tribunali, lamentano una situazione disastrosa sul piano del personale amministrativo, non ci si venga a dire che i problemi sono tanti, che c'è la lentezza della giustizia. No, qui c'è una precisa omissione, quella di non far fronte ai doveri che ho detto. Tenga presente che sono circa 20 anni che non vengono fatte assunzioni del personale amministrativo, il che ha portato evidentemente ad un innalzamento dell'età di chi è ancora in servizio, al pensionamento di alte cifre di impiegati amministrativi. I servizi nei palazzi di giustizia non li fanno soltanto i magistrati che sono a loro volta organico, ma è essenziale l'attività amministrativa. Quindi si tratta di denunciare una situazione, perché parliamoci chiaro, se non si rimedia la giustizia non potrà funzionare. Io non potrò dimenticare che certo sono tanti settori pubblici in cui carenze di questo tipo ci sono, però non posso neppure dimenticare una scritta che ho visto, pensi, su un tribunale olandese: sine justitia, nulla libertas. Allora, cortesemente, evitiamo i proclami, gli spot ad effetto, e cerchiamo di far arrivare il personale immediatamente agli uffici amministrativi, agli uffici giudiziari. Mi permetto anche di dire, su ciò che ha affermato prima Alessandro Galimberti, sono in disaccordo su due punti. Il primo, sul fatto che le imprese straniere non investirebbero in Italia per la lentezza dei tempi della giustizia. Non è così. Insomma, abbastanza. Sono molto scoraggiate anche da questo, comunque, sì, dei contenziosi, guardi, conflittualità. Questo però è uno slogan che viene anche ribadito molto spesso da chi ritiene che la giustizia debba agire con passi felpati nel campo dei reati che riguardano l'economia. Certamente sarà anche questo un elemento che influisce, ma per verità non è questo decisivo. Altro invece fattore, altro elemento che vorrei contestare, secondo me è un'imprecisione però in corso dell'inverti. Non è vero che il decreto ieri varato dal Consiglio dei Ministri rinvia il pensionamento di tutti i magistrati di Cassazione, ma solo di alcune decine, e dunque non è un provvedimento, dal mio punto di vista, pur apprezzando i magistrati che ne beneficiano, che serva rispetto ai problemi di cui stiamo parlando. Allora, occorre il personale amministrativo. Allora, mi colpisce molto nella sua missiva che ha mandato ad Orlando, poi i giornali l'hanno rilanciata, procuratore Spataro, proprio questa sua enfasi che fa sull'invecchiamento in media del suo personale amministrativo, perché lei dice sono pochi ed anziani, in media hanno 55 anni, in tutto sono 200 appunto gli amministrativi della sua procura. Lei è consapevole del fatto che il processo demografico italiano è nell'ultimo, che abbiamo delle riforme pensionistiche che porteranno inevitabilmente a continui invecchiamenti del suo personale amministrativo? Questi 55 anni mi hanno colpito molto. Evidentemente sì, però se 55 anni è un'età anche accettabile, anzi encomiabile per chi lavora, è sempre necessario che vi sia un ringiovanimento di alto livello. Se non arrivano nuovi impiegati amministrativi, nuovi funzionari, mi spiega anche a che serve propagandare come se fosse decisivo lo sforzo di implementare la informatizzazione, che peraltro ha dei difetti, non funziona a sua volta. Io ho denunciato anche i difetti di una separata missiva. Io non posso neppure formulare i pareri di le valutazioni di professionalità dei magistrati, perché il sistema non mi consente di ricavare statisticamente il loro lavoro. Allora lei comprende che si può lavorare bene anche a 70 anni, per carità, ma è evidente che occorre un ringiovanimento, perché a un certo punto, specie se consideriamo quello che accadrà nel 2017 e nel 2018, dovremo chiudere gli uffici o comunque limitare di molto i nostri servizi. Vorrei anche aggiungere che in questa campagna sono felice di aver avuto dalla mia parte il Consiglio dell'Ordine di Avvocati di Torino, ma come in altre sedi è avvenuto lo stesso, perché questo serve a dire che non si tratta di una rivendicazione corporativa, ma di tutti gli operatori della giustizia che, pur nella diversità di posizioni, pensano che se non c'è, come dire, la sostanza, la materia prima, è inutile stare a propagandare performance e delle cose. Se mi rifiuterò di stilare un programma di performance per l'anno 21 se la situazione non cambierà, sarebbe soltanto una mera enunciazione. Chi potrebbe negare che voglio la giustizia più veloce in tempi più brevi, ma se non riesco a farlo? Procuratore Spataro, le chiedo un ultimo commento sull'altro aspetto che sollevava prima in disaccordo con Alessandro Galimberti. Non è vero che i problemi, le lentezze della giustizia italiana ostacolano gli investimenti stranieri possibili e potenziali appunto nel nostro paese principale. Però è proprio il focus economico che per esempio ha fatto invece nel suo allarme il suo collega di Milano, Francesco Greco, pone proprio l'attenzione sul tema della legalità a 360 gradi e il focus del ragionamento di Greco è sulla peculiarità del capoluogo lombardo, dove lui ricorda hanno sede 3.100 multinazionali estere, un terzo di tutte quelle presenti in Italia. È un'area, quella lombarda, dove si realizza un quarto del valore aggiunto manifatturiero dell'export italiano e insomma queste imprese vanno tutelate naturalmente dalla concorrenza sleale della criminalità economica e delle organizzazioni mafiose. Mi sembrano concetti abbastanza importanti che possono rappresentare un deterrente per potenziali investitori stranieri, o no? Perché l'avrebbe detto se non Greco. Assolutamente, ma il dottor Greco non ha parlato però di fatture che scoraggia, ha parlato della necessità di tutelare gli operatori economici, siamo assolutamente d'accordo, però non diciamo che questa è la ragione per cui non si investe in Italia. Va bene, allora Cosimo Ferri, sottosegretario alla giustizia. Io vi saluto, chiedo scusa. Grazie saluto, procuratore Spataro, grazie molte per essere stato, ci ha fornito molto materiale per proseguire per gli ultimi 20 minuti del nostro programma, la nostra conversazione. Da cosa vuole partire? Spataro ha parlato di gravi responsabilità del governo e di una situazione disastrosa sul piano amministrativo. Orlando ha detto di aver messo mano ai numeri del personale. Ci può fare un punto ancora più aggiornato della situazione per rispondere a questi due enormi allarmi lanciati da Milano e Torino, Ferri? Sì, intanto voglio segnalare come sia evidente anche per il Ministero della Giustizia come sia prioritario intervenire per quanto riguarda il personale amministrativo. Oggi chi lavora nei tribunali, chi lavora nelle procure è ben consapevole il ruolo, l'importanza del cancelliere, dell'assistente giudiziario, di tutti gli operatori della giustizia. Lei pensi, un giudice emette una sentenza, se non c'è chi la pubblica è come non aver scritto la sentenza, certo. Quindi è tutta una catena che diciamo si lega e quindi tutti gli operatori hanno un ruolo. Voglio anch'io ringraziare l'avvocatura perché in questi anni di difficoltà anche per quanto riguarda il personale amministrativo ha sempre collaborato con grande responsabilità nei vari uffici giudiziari, quindi il tema del personale amministrativo è nell'agenda politica, è una priorità. E voglio anche dare dei dati perché il ministro Orlando ha già segnalato come sia stato lanciato un piano di reclutamento che riguardi 3.000 unità di personale amministrativo. Allora oggi si dice: quando parte questo piano, sottosegretario? Ecco, io voglio dare dei dati concreti perché mi piace essere sempre concreto e dare delle risposte precise. Allora, dal 2014 ad oggi, come abbiamo proceduto? Non siamo stati fermi. Abbiamo fatto quello che ci imponevano anche delle regole che riguardano la pubblica amministrazione. Non è un caso che questo governo intervenga oggi anche per semplificare e rivedere anche il modello di pubblica amministrazione per fare regole più semplici. Ma cos'è stato fatto? Noi obbligatoriamente, prima di fare i concorsi, abbiamo dovuto accedere alla mobilità. E quindi nel momento in cui i dipendenti delle province venivano meno per la riorganizzazione prevista in quell'ambito, noi abbiamo dovuto attivare una mobilità volontaria, ci sono delle regole da rispettare che immaginiamo lentezze abbia prodotto, certo, non solo, ma do dei dati perché mi piace darvi i dati. Noi abbiamo previsto sulla mobilità un passaggio di 3.000 unità e nella mobilità volontaria hanno aderito solo 580 persone. Quindi noi sulle 3.000 necessarie. Necessarie, non è che potevamo obbligare la gente, inizialmente non c'era la norma, e quindi 580. Però questo è un primo dato. Dal 2014 diranno sono poche, sono gocce, però per far vedere come la politica ha dato delle risposte, piccoli passi che porteranno a grandi passi, però risposte concrete. Quindi sono entrati 580 persone per mobilità volontaria. Poi abbiamo attivato lo scorrimento di alcune graduatorie di idonei, quindi persone idonee che avevano superato, seppur non vincitori, ma solo con l'idoneità, due concorsi, uno al Ministero dell'Interno e uno all'ICE, all'Istituto Commercio Estero, e quindi abbiamo assunto 62 persone per scorrimento dalla graduatoria ICE e 43 per scorrimento a una graduatoria del Ministero dell'Interno. Queste sono altre unità che sono state assunte. Inoltre abbiamo visto che, non funzionando la mobilità volontaria, abbiamo detto dobbiamo attivare una mobilità obbligatoria, e siccome c'è un sovrannumero in alcuni enti statali o parastatali di personale, a questo punto, siccome quella volontaria ci ha dato solo 580 unità, attiviamo quella obbligatoria. Che pure va fatta in modo ordinato, immagino, perché potete deportare le persone da un ufficio ad un altro, anche esatto. Lì. Obbligatoria, allora, per modo di dire. Esatto, però quella obbligatoria ha portato 359 unità che partiranno il primo settembre, quindi domani. Io faccio anche gli auguri di buon lavoro a tutto questo personale che entrerà nel mondo della giustizia, che sono 359. Beh, non siamo neanche a 1000, però, intanto, Ferri. Esatto, quindi ne mancano ancora 2000 all'appello. Allora, nel frattempo abbiamo fatto un emendamento che è inserito nel decreto legge 117 del 2016, che prevede la possibilità di assumere 1000 persone. Quindi noi abbiamo detto, all'esito di queste due procedure, mobilità facoltativa obbligatoria, noi ora chiediamo e abbiamo ottenuto con questa norma che ha voluto il Ministro della Giustizia e che su cui ci siamo appunto abbiamo evidenziato proprio per queste criticità che emergono anche negli appelli dei procuratori di Torino e di Milano, e quindi 1000 posti che noi attingeremo, che noi prenderemo sia attraverso il concorso, e voglio anche io sottolineare un dato che è stato dato prima dal procuratore di Torino, che dal 1997 che non si fanno concorsi nel Ministero della Giustizia. L'ultimo concorso risale al 24 maggio 1997. Allora, di fronte a questa situazione, mi pare che con questi dati diremo non siamo arrivati a 1000, però il Ministero ha dato delle risposte, sta cercando di affrontare in maniera seria questa criticità, e quindi questa DL 117/2016 prevede la possibilità di assumere 1000 persone alle quali noi, e da qui parte il piano, noi abbiamo già la copertura per arrivare a 3000 posti, quindi noi partiamo da 1000, ma siccome quando avevamo previsto la mobilità obbligatoria e facoltativa avevamo trovato fondi fino a 3000 posti, noi oggi questo piano di assunzione di 3000 persone rimane, e lo strumento non sarà più quello della mobilità volontaria obbligatoria, che però dovevamo esperire prima di procedere a un concorso, al bando di un concorso, così come prevedono delle regole generali, e quindi noi oggi partiremo con questi prima 1000 posti che si aggiungono ai 900 e tanti che già lavorano presso il Ministero della Giustizia grazie a tutta questa serie di procedimenti che abbiamo portato in essere. E come attingeremo? Potremo, anche qui abbiamo creato due canali, uno quello di attingere dagli idonei, e quindi con quel meccanismo già sperimentato che ho citato prima, dalle graduatorie ICE Ministero Interno, o comunque concorsi pubblici dove ci sono gli idonei, quindi persone che non sono entrate ancora nel mondo della pubblica amministrazione e che però hanno superato con l'idoneità un concorso. Altro canale è quello di fare un concorso pubblico, e quindi di assumere giovani laureati, giovani diplomati, e quindi di cambiare, anche integrare il personale a cui noi dobbiamo molto, perché io voglio davvero ringraziare il nostro personale amministrativo, anch'io provengo dagli uffici giudiziari, per la serietà, l'impegno, l'autorevolezza, il sacrificio con cui in questi anni hanno lavorato, e tra l'altro per loro stiamo sbloccando tutto quello che riguarda la loro riqualificazione, perché chiaramente poi abbiamo anche dovuto affrontare il tema di integrare personale che lavora da anni presso l'amministrazione e che non era stato riqualificato, perché il personale dell'organizzazione giudiziaria dei tribunali era l'unico personale della pubblica amministrazione non riqualificato, e noi stiamo affrontando anche questo per evitare quel conflitto teorico e che però potrebbe esserci tra chi entra e magari ha un grado uguale a chi lavora da anni presso l'amministrazione. E questo concorso eventualmente che ci ha citato prima potenziale, ecco, sottosegretario, quando potrebbe essere fatto? È un canale che nei prossimi mesi, perché noi abbiamo due strade, sia quello dello scorrimento che quello del concorso pubblico, e ora la nostra direzione generale, e poi la decisione spetterà al Ministro della Giustizia, sta lavorando su come attingere questi 1000 posti che però saranno velocemente inseriti. Da qui parte quel piano che deve arrivare a 3000 e quindi arriveremo a 3000 dove c'è già la copertura e poi continueremo. Dei mesi, ho la sensazione che Spataro, Greco e non solo dovranno impugnare carta e penna, o forse lo faranno ancora per sollecitarvi magari nei prossimi mesi. Sottosegretario Ferri, non voglio essere maleducata, però ho un altro ospite, l'ho fatto aspettare per tutta l'ora, mi mancano 7 minuti prima di chiudere il programma e devo sentire quantomeno Remo Danovi, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano, perché sempre in questa nutrita inchiesta fatta dal Corriere in questi giorni è stato segnalato come anche l'organismo forense milanese negli ultimi 10 anni abbia finanziato con oltre 8 milioni di euro gli uffici giudiziari in questo curioso meccanismo di sussidiarietà all'interno del sistema che adesso, avvocato Danovi, lei deve spiegarci appunto perché c'è questo contributo da parte dell'ordine appunto forense nel pagare per esempio le retribuzioni del personale esterno assegnato ai servizi giudiziari più in difficoltà. Che cosa vuol dire questo vostro impegno ed è normale che ci sia? Innanzitutto buongiorno e grazie per averci interpellato. Il problema è questo, che noi abbiamo assistito nel corso degli anni sempre a una paralisi progressiva dei servizi. Allora siamo intervenuti all'inizio, parlo di alcuni anni fa, per sanare le emergenze e le situazioni più contingenti occasionali. Poi ci siamo accorti che queste situazioni apparentemente occasionali, metta per esempio difficoltà nelle notifiche, diventavano permanenti e strutturali. Cosicché poco a poco ci siamo accorti che la richiesta dei servizi per farli funzionare lievitava moltissimo, e lì c'era anche l'idea che dovessimo in qualche modo intervenire per aiutare non gli avvocati, ma aiutare i cittadini, perché il grande assente di tutta questa discussione è il cittadino e gli avvocati che li rappresentano. E il cittadino aspetta dei servizi, gli avvocati svolgono i servizi e poi devono avere le sentenze scansionate nel tempo, esatto, numerate in modo che si possa impugnare, devono avere la liquidazione delle spese per il patrocinio e spese dello Stato, insomma tutta una serie di servizi, devono poter svolgere gli esami di avvocato che la legge assegna ai corti d'appello, perché tutti questi servizi erano carenti e bloccavano la struttura giudiziaria. Su tutti questi servizi, ma parcellarmente, la tribù di sorveglianza, ai minorenni, ai giudici pace, all'ufficio esecuzioni, in corte appello, consiglio giudiziario, in tantissime parti della struttura del Palazzo di Giustizia di Milano siamo intervenuti, perché quando io sono arrivato ultimo della serie del 2015 mi sono accorto che noi avevamo una cifra impressionante di aiuti e tradotto in unità operative più di 40 o 50 persone, e questo non è giusto perché noi possiamo intervenire su situazioni occasionali contingenti, ma non su situazioni strutturali. Allora ho parlato rompendo sostanzialmente l'itinerario, che era una progressione crescente di impegno, ho parlato con tutti gli uffici giudiziari e ho detto che noi avremmo ridotto drasticamente il nostro intervento, ma gradualmente, per non paralizzare i servizi, diciamo il 20% ogni anno, e quest'anno 2016 per la prima volta invertiamo la tendenza e cominciamo a ridurre. Vogliamo ridurre progressivamente, ma non per allontanarci dalla giustizia, al contrario, per potenziarlo, perché tutto quello che noi risparmieremo in termini di denaro e dare i servizi materialmente, con tutte le problematiche che questo pone, perché anche le parole del sottosegretario, che effettivamente sono molto confortanti sulla volontà di fare, però è una volontà che non si esprime in concretezza, perché noi l'attuazione di quei 3000 persone, poi quanti saranno dati a Milano piuttosto che a Torino e gli altri, perché Milano apparentemente funziona grazie al nostro aiuto e quindi magari sarà dotato di minori servizi. Però tutto questo per dire che noi non ci allontaniamo soltanto dall'attribuzione delle spese a favore dei servizi, ma facciamo una cosa molto più importante, cioè valorizziamo quella che oggi la legislazione ci permette di fare, che è l'attività sostanzialmente contenziosa degli avvocati, con la negoziazione assistita, con la mediazione e conciliazione, per interpretare noi le esigenze dei cittadini per risolvere i conflitti. I numeri che calano dei processi civili Non è una grandissima parte della maggiore efficienza dei servizi che sono presso poco uguali, anche in Cassazione non è esatto il numero di 100.000 sentenze emesse, le sentenze emesse sono 30.000, ma i ricorsi pendenti sono 100.000, sicché ci vogliono 3 anni solo per fare l'arretrato, senza contare che ogni anno intervengono altri 30.000, quindi è un cane che non raggiunge mai se stesso. Grazie. Allora, sì. Noi invece, dovendo fare tutta questa iniziativa a favore della giurisdizione forense, come la chiamiamo noi, noi interveniamo per destinare queste risorse alla nostra formazione e all'attività di giurisdizione di affiancamento alla giurisdizione ordinaria. Grazie avvocato, chiudo con Alessandro Galimberti, ci mancano 2 minuti di tempo. Alessandro, aperto con te e chiudo con te anche per richiamare un concetto parzialmente espresso poco fa appunto dall'avvocato Danovi sul tema della mediazione delle liti, appunto con l'ausilio dell'avvocato, un'iniziativa che è stata contemplata nella riforma del processo civile appunto recente. Ma perché non è cambiato nulla con questa riforma? Perché i tribunali non sono stati aiutati in questo obiettivo fondamentale di snellimento appunto dell'arretrato? Sulla abbiamo un minuto, Alessandro, purtroppo sì, anzi anche un e mezzo. Con con molta fatica, perché sono stati ricorsi di costituzionalità, eccesso di delega. Adesso da un paio d'anni è obiettivamente parte del sistema giuridico nostro. C'è un fatto culturale: gli italiani sono poco disposti per natura a conciliare senza avere una sentenza in mano. L'istituto sta funzionando, ma non sta diminuendo così tanto il numero delle cause entranti nel procedimento civile. Vorrei tornare su quello che ha detto Spataro, perché il conflitto sulla questione investimenti e certezza del diritto è solo apparente. Lui ha una prospettiva di diritto penale, su quale peraltro è l'aspetto migliore di funzionamento della giustizia italiana. Il motivo per cui le multinazionali nuove o le società straniere che non sono ancora basate in Italia tendono a evitare l'Italia è sul funzionamento della giustizia civile, che non dà sicurezza di previsione sui tempi, sulla soluzione delle liti, e questo nonostante l'introduzione della media conciliazione. Un'ultima cosa, purtroppo sulla Cassazione il numero dei procedimenti è altissimo. Ad oggi, la Cassazione civile, ad oggi vuol dire 31 agosto, a ieri, ha emanato 37.560 sentenze dall'inizio dell'anno, mentre la sezione penale è arrivata già a 19.000. Siamo ad agosto con la Cassazione che ha messo 56.000 procedimenti. Questo è un problema serio che riguarda anche gli avvocati, che hanno una eccessiva disposizione a portare fino in fondo procedimenti che 9 volte su 10 vengono respinti in Cassazione. Temi che non mancheranno di continuare ad animare anche il nostro dibattito radiofonico. Intanto grazie ad Alessandro Galimberti, al sottosegretario Ferri, al presidente degli avvocati di Milano Danovi. Ci fermiamo, adesso abbiamo il giornale radio, ma noi ritorniamo subito dopo. Ma cos'è quest'estate? Perché adesso si fanno un sacco di spettacoli pro terremoto, bisogna stare veramente attenti, perché poi io lo so come funziona, troppa gente dietro, troppi organizzatori mi fanno paura, a me gli organizzatori, quando vedo tutti questi cantanti che poi vanno a cantare, per quanto mi riguarda io preferisco fare ognuno a modo suo, capito? Io preferisco fare la mia beneficenza privata, sono fatti miei, la faccio io, nessuno sa niente. Ma queste cose troppo amici, tutti insieme andiamo e cantiamo, cioè se allora la dobbiamo di tutto c'è bisogno di cantare. Dai i soldi direttamente e il gioco è finito. E questo era Fiorello, lo avrete riconosciuto, il video con queste sue dichiarazioni ha fatto il giro del web, di tutti i principali siti appunto di informazione, eppure nonostante le sue considerazioni, che peraltro da qualcuno ovviamente sono state super strumentalizzate, anche se poi lui ha anche corretto il tiro perché ha detto giustamente non ho detto che non bisogna fare solidarietà, non ho detto che non bisogna fare queste iniziative, questi concerti, dice però insomma io ci credo fino ad un certo punto, lo ribadisco anche il concetto che ha espresso molto chiaramente, troppa gente dietro, troppi organizzatori a volte mi fanno paura e forse è meglio ognuno che faccia a modo suo, preferisco fare la beneficenza privata, dare i soldi direttamente e il gioco è finito. Eppure nell'imponente macchina della solidarietà c'è, e io dico giustamente, la voglia, per chi ha una voce più forte e ha più visibilità, il desiderio di mettersi a disposizione per iniziative di raccolta fondi, e in passato, lo ricorderete bene, ne abbiamo avute tantissime. Facciamo magari un riassunto della situazione, di quelle che ci ricordiamo di più, con la nostra Marta Cagnola, che torna ad essere ospite graditissima di Ma chi cos'è quest'estate. Marta, buongiorno. Buongiorno, sapete che per me è sempre l'ora di colazione, ecco, pigiama, esatto. Caffè, come al solito. Poi tu arrivi in redazione un po' più tardi, ma il lavoro per i temi di cui ti occupi il tuo lavoro non finisce mai. Non finisce mai, questa sera sarò in redazione fino a mezzanotte, ecco. Non sono una dormigliona. Allora, il pensiero inevitabilmente torna subito a due eventi, al terremoto dell'Aquila e al terremoto in Emilia. Terremoto dell'Aquila con quel grande concerto delle donne per l'Abruzzo e anche un brano relativo e la grandiosa iniziativa di Mauro Pagani e del brano Domani che aveva fatto con Giuliano Sangiorgi. Per quanto riguarda Italia Loves Emilia, quel concerto emozionantissimo di Campovolo che venne fatto anche lì per raccogliere fondi. Io devo quasi dire una 4 cosa. Milioni di euro dei biglietti, quindi ricordiamolo. Certo, voglio subito certo. Ricordare la cifra perché ieri molti giornali hanno fatto tutto il percorso che ha seguito questo denaro, perché cosa è stato utilizzato e che cosa ancora manca all'appello ma che verrà destinato prossimamente. Quindi questo voglio precisarlo nonostante, come dire, la sfiducia che molti mostrano nei confronti di iniziative di questo tipo. Marta. Vorrei solo dire una cosa su Fiorello. Chi conosce Fiorello anche solo mediaticamente sa che spesso si alza la mattina e gira questi video in maniera molto molto sincera, cioè lui va in diretta su Facebook o prima su Periscope in maniera molto schietta e reagisce a quello che gli è successo in quei giorni, a volte ma sempre senza mediazioni. Io ho avuto l'impressione che lui in quei momenti fosse stato contattato da tante persone e tutti gli dicevano vieni a fare questo, vieni a fare quello. L'ha detto io lui, ho avuto sono stato chiamato da questo e quell'altro, quindi un po' tirato per la giacchetta in maniera estemporanea, dici tu, ha voluto esprimere questa sua considerazione esatto. Molto di getto di cuore. Io ho avuto questa impressione e che quello della sera, quando poi Laura Pausini gli ha risposto guarda che noi abbiamo tirato su più di 2 milioni di euro e abbiamo fatto questo, non sia stato tanto una rettifica, un passo indietro, quanto un riconoscere che ci sono eventi molto seri, ma che si muove anche spesso in buona fede, talvolta no, una macchina immensa di artisti che vogliono dare una mano e qualcuno purtroppo che vuole anche farsi vedere. Marta, tu hai ricordato le nostre iniziative Amiche per l'Abruzzo, l'iniziativa di Campovolo del 22 settembre del 2012 per l'Emilia. Io vado ancora un po' più indietro nel tempo con una cosa che non riguarda l'Italia ma un'altra grande iniziativa internazionale. Abbiamo fatto un salto indietro nel tempo fino al 1985, questo brano Michael Jackson e Lionel Richie lo scrissero, fu prodotto da Quincy Jones. Marta, USA for Africa. Sì, devo dire, guarda, sto controllando in maniera molto molto rapida, perché We Are the World venne pubblicato il 7 marzo 1985, ma in realtà non fu il primo esempio, perché andare indietro di qualche mese. Il 3 dicembre 1984... E qui mi spezzi proprio il cuore, perché in questi brani c'è la mia infanzia, ci sono i miei ricordi più belli, Do They Know It's Christmas, Band Aid. Lì si lavorava per l'Africa e le iniziative andavano alla grande, credo, no? Nessuno forse ha mai contestato la modalità con cui avveniva la raccolta fondi e poi la redistribuzione o la ridestinazione, Marta, o quantomeno io non ne ho ricordo. Ti dirò di più, tutto questo poi ha cambiato la vita di Bob Geldof. Perché da lì è proprio cambiato il modo di vivere di un artista, il modo di pensare a tutto quello che lui avrebbe fatto nella sua vita. The Band Aid e poi, non dimentichiamoci, 13 luglio 1985, immaginate, sto digitando freneticamente per trovare le date esatte, Live Aid. Certo. È lo stadio di Wembley e tante altre località nel mondo. Chi c'era, era piccolo, l'ha visto poi, insomma, capisce che lì stava cambiando tutto. Poi ci sono state anche iniziative carine, tenere, buffe, i calciatori italiani che avevano fatto il brano di Natale, Alleluia, che era veramente tenero. We Are The World ebbe anche un album con un seguito in Canada, infatti nell'album c'era anche una bellissima canzone canadese che era Tears Are Not Enough. Sono ricordi bellissimi degli anni Ottanta. Io posso dirti che In questo sicuramente sei più preparata tu, non avevamo neanche la percezione del oddio chissà dove vanno a finire, esatto, come vengono investiti, c'era forse perché erano gli anni 80, c'era più ingenuità, più fiducia, non lo so, o forse perché non erano situazioni italiane, Marta, non lo sappiamo. Detto questo, tra l'altro, tu hai parlato di cantanti e c'è anche la straordinaria esperienza del lavoro fatto negli ultimi forse 30 anni da parte della Nazionale Cantanti Italiana. Allora direi che posso subito scomodare Gianluca Pecchini, General Manager della Nazionale Cantanti. Buongiorno Gianluca, grazie di essere con noi questa mattina. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Quante partite avete fatto per quante iniziative di solidarietà raccolta fondi in questi anni? E mi ricordi quando è nata Nazionale Cantanti? Mi sono lanciata in maniera un po' troppo esagerata nel dire una trentina d'anni ormai. No, no, anzi, sono 35 anni, ecco, almeno all'inizio, è dell'81. Poi l'associazione è nata nel 1987, dopo questo periodo, come dire, di prova, di incubazione. E nell'87, come si può dare di più, che con cui Morandi, Tozzi e Ruggeri vincono Sanremo, e di conseguenza, come dire, quello spirito garibaldino della prima ora, che comunque già produceva eventi con cui si faceva raccolta fondi, che sono le partite, perché noi tradizionalmente ci muoviamo attraverso la partita come strumento di raccolta fondi, ha dato una coscienza maggiore a tutti gli artisti, Ramazzotti, poi Antonacci, successivamente Ligabue per un certo periodo, eccetera, per cui si costituì un'associazione che diventa riconosciuta nel 1996 e quindi si attiene a quelli che sono gli statuti, i parametri previsti appunto dalle norme statutarie, e che poi con l'introduzione delle leggi sulle onlus è stato tutto, insomma, rispetta anche, come dire, tutto quello che a livello legislativo il nostro paese mette a disposizione. Tra l'altro voi Gianluca già avevate, adesso magari ricostruisco male la notizia, previsto nei giorni scorsi una partita a Castiglione della Pescaia che poi è stata subito girata, come dire, in termini di destinazione del denaro raccolto a favore delle popolazioni terremotate. Ecco, era una partita in programma perché noi, oltre alla partita del cuore televisiva che usufruisce della collaborazione, oltre che di Rai 1, delle telefonie, quindi tutte le compagnie telefoniche per una raccolta fondi che diventa quella più importante di tutto l'anno, abbiamo altri eventi, chiamiamoli regionali, 5 eventi, e uno di questi era stato previsto il 27 agosto. A quel punto una piccola cifra, quella che si poteva comunque alla luce della tragedia che è successa, l'abbiamo destinata alla Croce Rossa. Ora stiamo pensando ad un evento che comunque non sarà di musica, ma sarà sempre un evento di carattere, chiamiamolo, sportivo solidale. Con tutti i vostri personaggi che intendono aderire e che quindi consentiranno di avere quel richiamo necessario. Le vostre raccolte poi e la destinazione dei vostri fondi è tutto pubblico, Gianluca? Per chi volesse avere... Certo, noi le raccolte avvengono attraverso appunto gli eventi, l'evento principale, come ti dicevo prima, è la partita del cuore, vengono preparati e garantiscono allo spettatore che interviene allo stadio o al donatore attraverso il telefono di poter dare totalmente tutto quanto versa alle destinazioni che vengono annunciate. Gli eventi vengono a bilancio preventivo preparati prima, finanziati istituzionalmente o commercialmente, quindi da aziende etiche o meno, dalle istituzioni che intendono, cioè lo stadio messo a disposizione dalle società o dal comune, eccetera, eccetera, e a quel punto, quando abbiamo la preventiva copertura dei costi, l'evento si può fare, di modo che tutto quello che viene raccolto viene destinato. Allora, e intanto, poi avvengono sì, le varie consegne, eccetera. Poi noi seguiamo fin dove possiamo anche la realizzazione dei vari progetti. Allora, intanto, per quello che riguarda le popolazioni colpite dal sisma, che cosa stanno mettendo in cantiere in Italia gli artisti e non solo? Allora, per esempio, questa mattina sulle pagine della Cronaca di Milano di Repubblica si anticipa della possibilità di uno spettacolo di beneficenza al Forum di Assago ad inizio ottobre. Artisti, scrittori e sportivi ci stanno lavorando, iniziativa che ha già trovato il sostegno da parte del sindaco Beppe Sala. Poi un'altra notizia che ho ritrovato ieri, Ron canterà al Teatro degli Arcimboldi a Milano il 29 settembre, era già un evento benefico preorganizzato a favore dell'associazione dei malati appunto colpiti dalla SLA, ma il cantautore ha detto che devolverà parte del ricavato anche alle popolazioni colpite dal sisma. E poi c'è il jazz italiano per l'acqua. Questa iniziativa sostenuta e promossa per il secondo anno consecutivo dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, appunto, che si trasformerà per un giorno, domenica 4 settembre, anche in il jazz italiano per Amatrice, e fa tappa anche a Roma. Ce ne ha parlato un famosissimo trombettista italiano, Paolo Freso. La sua intervista è stata raccolta dalla nostra Vincenza Loddo. Il jazz italiano per l'Aquila diventa jazz Italia per Amatrice. Cosa e come cambia questo appuntamento? Noi il 4 settembre saremmo dovuti essere all'Aquila, come è stato lo scorso anno, con una manifestazione enorme. Avremo invaso, ovviamente pacificamente, il centro storico della città in ricostruzione con circa 750 musicisti, 110 concerti in 12 ore, in 20 postazioni diverse. Ovviamente poi il sisma ha dovuto modificare completamente l'evento. Per solidarietà o per questioni di sicurezza? Da una parte per problemi di sicurezza, ovviamente, perché insomma attendevamo quest'anno circa 100.000 persone rispetto alle 60.000 dello scorso anno, e poi giustamente il sindaco ha voluto dare una dimostrazione di affetto e di solidarietà alla città di Amatrice e a tutti i centri colpiti dal terremoto. E quindi ci saremo nella Basilica di Collemaggio, quindi chiuderemo la giornata del 4 settembre in quello spazio bellissimo, e poi durante il giorno saremo a Roma, alla Casa del Jazz, che è un po' il luogo del jazz italiano. E però durante la giornata poi ci saranno circa 20-25 città in Italia che si stanno adoperando per organizzare ugualmente dei concerti. L'esperienza dell'anno scorso è stata per noi bellissima. Io credo che il jazz italiano si divida tra il prima e il dopo l'Aquila, e noi non dimentichiamo le grandi emozioni che abbiamo vissuto insieme agli aquilani e anche insieme a tutte le numerosissime persone che sono state con noi. Quali sono i nomi emergenti che si esibiranno all'Aquila, Roma, Milano? Beh, intanto a Roma saranno presenti tutti i gruppi dei comitati regionali, della MIDI, l'Associazione Nazionale dei Musicisti di Jazz. Questa sarà dunque la rappresentanza corale un po' di tutto il jazz italiano. Ci saranno anche tutti i pianoforti soli che abbiamo mantenuto. E poi invece i nomi che saranno presenti la sera sul grande palco di Collemaggio sarà ovviamente l'orchestra del Conservatorio dell'Aquila, degli aquilani devono essere presenti, l'Abruzzo deve essere presente. Speriamo di poter avere anche la banda di Paganica, che è la banda della città, diciamo così, ma poi ci saranno Tullio De Pisco, poi ci sarà Fabrizio Bosso, ci sarà Maurizio Gianmarco, ci saranno i gruppi di Dixieland, ci sarà Raffaele Gualazzi, ci sarà Nick the Nightfly. Insomma, i musicisti sono veramente tanti, il programma è molto vasto, molto molto ricco. Marta, se ce la facciamo ci andiamo anche noi, senza sì, suonare. Proprio, ma perché no? Ma perché no? Dico io posso cantare. Allora, Artisti per Amatrice, poi il primo settembre alle 21 a Civitavecchia, organizzato da Alessio Bernabei. Io tendo, ti dico la verità, a fidarmi delle persone singole. Se tu mi dici Ron, io ti dico sì, subito. Alessio Bernabei è un caro ragazzo, secondo me. Io poi sarò così istintiva, però alla fine decido così. Allora, ti faccio ascoltare adesso invece quello che vuole raccontarci, quello che può raccontarci Claudio Trotta, che so se vi conoscete anche molto bene, fondatore di Barnes Art. Lui è una leggenda, ecco, è una leggenda per quello che riguarda. Esatto, l'organizzazione dei grandi eventi. Claudio, buongiorno, benvenuto a Barley's Arts. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, lascerei da parte il commento sulle dichiarazioni di Fiorello, ma mi soffermerei però su un aspetto sollevato dalle sue considerazioni, cioè sul tema. Per mettere in piedi eventi di questo questo tipo, naturalmente i costi che devono essere sostenuti sono enormi. Basti richiamare, Marta lo ricordava alla memoria, l'evento di Amiche per l'Abruzzo a San Siro, eccetera. Non è che ci sono le artiste che vanno su e cantano con una base musicale, c'è un mondo da mettere in moto che è enorme, per cui se si guadagna Claudio 5, naturalmente 2 quantomeno si deve immaginare di metterli da parte per tutte le spese che si devono sostenere appunto per rispondere a varie voci. Allora, quindi questa osservazione che Fiorello fa naturalmente è anche pertinente. Ti volevo chiedere un commento magari su questo aspetto, perché poi non è detto che tutto il circuito che si mette in moto per la solidarietà voglia evidentemente aderire, come dire, all'iniziativa di sostegno alla causa. Che ne pensi? Ma guarda, la questione è abbastanza controversa e complessa. Tanto per cominciare parliamo a livello internazionale, non solo italiano. Non facciamo l'errore di essere provinciali. Il tema dell'organizzazione di eventi benefit è un tema che ha portato anche proprio al fatto che ci sono delle persone nel mondo che di mestiere fanno quello, e non c'è da stupirsene, nel senso che se lo fanno bene, se lo fanno professionalmente, se lo fanno seriamente, non vedo quale sia il problema. Dall'altra parte, spesso e volentieri ci sono persone, artisti, cantanti, sia internazionali che italiani, calciatori, a largo a tanti altri, che come dire, utilizzano il benefit per avere della visibilità, utilizzano il benefit per far spendere i soldi agli altri e non mettere mano al portafoglio. Io credo che, molto banalmente, una cosa che mi pare abbia detto anche Fiorello e che io dico da tantissimi anni: se uno vuole fare beneficenza, se uno vuole dare dei soldi per una causa, che lo faccia in privato mettendo mano al portafoglio, è la maniera più semplice della terra, è la maniera più diretta ed è la maniera più corretta. Detto questo, è vero che ci sono dei casi, penso a quello che ha descritto ieri Laura Pausini molto bene su quello che hanno fatto loro, che dove la professionalità e la serietà è certa. C'è da farsi alcune domande, per esempio la SIAE in tutto questo cosa fa? Personalmente io ho provato in alcune occasioni in cui credevo fosse giusto spendermi per fare qualcosa di questo genere, e dalla SIAE ho ricevuto dei grandissimi schiaffoni, nel senso che la SIAE non ha affatto rinunciato ai propri introiti. Non so cosa sia successo recentemente, può essere che recentemente qualcosa sia cambiato, perché da un po' non mi occupo direttamente di questo, però c'è da chiedersi per esempio quello. C'è anche da considerare il fatto che molte volte ci sono dei veri e propri millantatori. Io mi ricordo tanti anni fa, quando stavo organizzando un tour della premiata Forneria Marconi insieme al compianto Franco Mamone, il decano di tutti noi, e quello che ha insegnato il lavoro a tutti noi, e mi ricordo che stavo parlando con una persona che voleva organizzare un evento per la ricerca sul cancro, una cosa seria, quindi come è seria e dolorosa quella di cui stiamo parlando ora, e questa persona, mi ricordo, venne in ufficio da noi, ci parlai io, mi disse che era malato di cancro, che era malato terminale, eccetera eccetera. Dopodiché abbiamo fatto siamo arrivati al giorno del concerto, questo non aveva pagato nulla di quello di cui doveva pagare, appunto i costi organizzativi che nel caso andavano sostenuti, perché è una grande verità che se un cantante decide di fare beneficenza, non necessariamente il tecnico del suono è che magari guadagna uno stipendio, esatto, un filino un po' più ridimensionato, farlo, ecco, o ci riesca, anche ecco, lui. Il giorno stesso del concerto questo è stato portato via dalla polizia ed era ed è venuto fuori che era un millantatore di categoria super, non aveva alcun cancro, per fortuna sua, ed era da anni che faceva truffe di questo genere. Coglione io, che non me ne accorsi, per l'amor del cielo. Però diciamo che è stata un'esperienza che ti ha insegnato poi qualcosa. Dall'altra parte ricordo di aver fatto nel mio piccolo una cosa di cui vado tanto fiero, un evento contro l'embargo di Cuba, molti anni fa, insieme a Gianni Minà, e ricordo alcuni atteggiamenti da parte di alcuni cantanti italiani che parteciparono pessimi, e alcuni invece molto positivi. Ricordo che riuscimmo in qualche maniera a mandare qualche soldo a Cuba direttamente e ne fui molto contento. È un tema abbastanza complicato. In linea di principio sono d'accordo con Fiorello, se si vuole fare beneficenza si mette mano a portafoglio. Ricordo un grande, Steve Collins, che durante due tour che organizzai io in Italia, tutte le sere chiedeva alla gente di dare dei soldi per i senza tetto, perché per i senza tetto se ne occupa ben poca gente. A Milano c'era Fratello Ettore, purtroppo è morto, Fratello Ettore faceva un lavoro strepitoso. Lui mi chiese: ma chi se ne occupa a Milano? Al tempo si occupava per l'appunto Fratello Ettore, e lui mi fece consegnare a Fratello Ettore in privato, senza che nessuno lo sapesse, e lo sapeva, qualcosa come, mi pare, 50.000 sterline, ma sto parlando di tanti, tanti anni fa, quindi tanti soldi. No, infatti, nessuno lo sapeva. A me piace quando... Esatto. Hai fatto bene anche a raccontarcelo, Claudio, proprio per questa beneficenza invisibile che si fa, quella che non cerca la visibilità, quindi iniziative molto concrete, e grazie anche per aver condiviso con noi l'esperienza di questi invece millantatori delle necessità, appunto, che molto spesso, che il mondo della solidarietà è popolato anche da questi soggetti. Purtroppo invece i disastri del terremoto sono ben visibili, nonostante questo truffatore con i quali tu ti sei imbattuto, invece le vittime del terremoto sono evidenti, per cui per chi volesse poi... No, sono anche però dei grandi professionisti che organizzano iniziative bene. Gianluca è uno di questi, questo è poco ma sicuro. Certo. Grazie. Marta, un ultimo messaggio prima di salutarci da parte tua? Allora, io non lo so, davvero, vorrei che le persone non perdessero la fiducia, perché io stavo leggendo anche gli sms, li stavo sbirciando, e in tanti dicono: ah, ma tanto non arriva nulla. No, no. E questo è l'atteggiamento che a me spezza il cuore. Ti rubo solo un secondo per dire una cosa. Due giorni fa abbiamo perso una persona fondamentale per la cultura italiana, Hai per la mia vita, bene, che era Tommaso Labranca, e scusate se ne parlo con veramente il cuore spezzato, ma lui sarebbe stata giusta, la persona giusta per parlare oggi, e grazie per farmi fare questo ricordo. Hai fatto la benissimo, persona che mi ha cambiato la vita, perché noi non lo abbiamo fatto, lo hanno fatto però tantissimi giornali al posto nostro, ha dato anche un grandissimo contributo di simpatia, creatività, intelletto, appunto, a Radio 24, per cui con questo ricordo in questo contesto un po' complicato per il nostro grandissimo amico Tommaso Labranca, noi terminiamo questa seconda parte del nostro programma. Adesso andiamo verso la terza per parlare di un altro grande invece successo, mi verrebbe da dire, del Made in Italy a livello internazionale, un successo però nel mondo letterario. Io chiedo ai nostri ascoltatori: chi di voi ha letto la quadrilogia L'amica geniale? A tra poco. Ma cos'è quest'estate? Delia, mamma, il caffè. Sì, mamma, mi chiedo lì. Delia? T'ha già aggiustata una giacca di lino che ho trovato dentro la cesta. Ma io non so dove tiene la roba estiva. Non ti preoccupare, mamma, la metto a posto dopo io. Allora io scendo. Ti vado a fare un poco di spese prima di partire. Tu che ti vuoi mangiare a mezzogiorno? Quello che vuoi tu. Ah, vabbè. Allora io scendo. Ciao, mamma. Ciao. Una clip tratta da un film diretto da Mario Martone, L'amore molesto, un film tratto da un lavoro di un grande nome della, come dire, della scrittura italiana, forse più amato all'estero che in Italia, anche se ormai il riconoscimento anche registrato nel nostro paese è enorme e naturalmente del tutto meritatissimo. Un lavoro di Elena Ferrante, della quale probabilmente molti ascoltatori adesso hanno a mente, forse più di tutti, la quadrilogia di gran successo, L'amica geniale. Perché ne parliamo questa mattina? Perché ci hanno incuriosito alcuni articoli che sono stati diffusi in questi giorni, che sono stati pubblicati in questi giorni, in cui si parla del grandissimo clamore mediatico che invece questa autrice ha ad Hollywood, negli Stati Uniti. Sarebbe la scrittrice preferita di Nicole Kidman, di Jane Campion, ma anche di altri attori come James Franco, ma insomma potrei farvi un elenco lunghissimo, segno che il mercato americano l'ha accolta da tempo, per la verità non è una notizia recente, con grandissimo appunto successo. E noi di questo fenomeno, Elena Ferrante, vogliamo parlare questa mattina, con anche naturalmente una prova di capire di che stiamo parlando, perché come sapete quando si parla di Elena Ferrante si parla soprattutto del mistero legato all'identità dell'autrice, perché Elena Ferrante è uno pseudonimo, la sua identità come dire, è qualcosa che forse solo il suo editore conosce, anzi sicuramente solo il suo editore conosce, poche altre persone fidate custodiscono gelosamente appunto da decenni. Sarebbe comunque, secondo la convinzione generale, una donna sposata, napoletana, ma che continua a rifiutarsi di rivelare il suo vero nome e lascia che i suoi libri parlino per lei. Sandro Ferri è fondatore della casa editrice Edizioni EO, che è una casa editrice indipendente, peraltro, che ha il merito di averci regalato questo fenomeno. Ferri, buongiorno e benvenuto a Ma che cos'è quest'estate? Buongiorno a voi. Io molto indegnamente sto parlando appunto di Elena Ferrante. Vorrei subito fare un commento rispetto a questo grande clamore che viene dato al fatto che le star di Hollywood oggi la amino così tanto, Ferri, e peraltro dobbiamo anche ricordare che siamo proprio alla vigilia, perché oggi esce La Frantumaglia, giusto? In Italia esce oggi. Negli Stati Uniti uscirà all'inizio di novembre. Allora, Nicole Kidman, ma non solo, che cosa succede negli Stati Uniti attorno ad Elena Ferrante? Poi ne parleremo anche direttamente con chi segue anche il mercato americano per conto della vostra casa editrice. Prima però vorrei raccontarlo per voce del papà di Elena Ferrante, Ferri. Grazie del papà. Allora, noi circa 10 anni fa abbiamo fondato una casa editrice negli Stati Uniti che si chiama Europe Editions, e uno degli obiettivi era proprio quello, far conoscere a alcuni autori italiani e europei, in particolare Elena Ferrante, che in Italia aveva avuto già un certo successo, però che negli Stati Uniti non trovava un editore. Abbiamo pubblicato il primo libro negli Stati Uniti 10 anni fa, era I giorni dell'abbandono, il primo romanzo. E da cui poi è stato tratto anche lì un film di Roberto Faenza. Esattamente, sì, con Margherita Bui. Il libro ha avuto un buon successo, non clamoroso, però un buon successo. E negli anni è continuata a salire questa fama, questo successo dell'autrice, anche grazie, devo dire, questa forse è la differenza principale con l'Italia. Negli Stati Uniti esiste un sistema di giornalismo, di informazione culturale molto efficiente, molto serio, e quindi l'autrice è stata cominciata a essere recensita da tanti autori, da tanti registi critici importanti, giornalisti, e man mano la sua fama è cresciuta fino all'uscita della quadrilogia dell'amica geniale, che ha portato a questo successo clamoroso. A quel punto, siccome appunto negli Stati Uniti esiste in qualche modo una società letteraria, cioè esiste una parte della società che realmente legge le critiche, legge le recensioni, che ne discute, di cui fanno parte anche queste attrici alcune di queste attrici di Hollywood o altri personaggi del mondo del cinema, dei media di cui lei ha parlato. Se ne è parlato sempre di più, e quindi lì il successo è cresciuto su questa base, anche aiutato molto dalle librerie indipendenti che negli Stati Uniti sono importanti. E quindi poi c'è stato l'interesse anche del cinema, si farà una serie in Italia, però anche i produttori americani e in genere lo star system americano è stato molto interessato, come ha ricordato anche lei. E così è venuto questo successo. Allora, noi ne stiamo parlando in questi termini che possono apparire anche piuttosto tranquilli, ma quando noi parliamo di Elena Ferrante, Sandro Ferri, forse vale la pena ricordarlo, parliamo dell'autrice italiana più celebre al mondo dopo Umberto Eco in questo momento. Sì, direi di sì. Forse c'è anche Andrea Camilleri per ricordarne un altro importante, però sicuramente sono questi. Attualmente è sicuramente l'autrice italiana che vende di più nel mondo, poi non solo negli Stati Uniti, in Francia. Esatto, facciamo qualche descrizione un po' di questo fenomeno. Esatto. Beh, guardi, per esempio in Francia, dove è uscito finora solo un volume dell'amica geniale, dei quattro, quindi ne è uscito uno solo, e il libro ne sono usciti due, anzi ne è uscito il secondo recentemente, La storia del nuovo cognome, quindi esattamente, e i libri sono in testa alle classifiche delle librerie francesi. Nei paesi scandinavi, parlo di Danimarca, Norvegia, Svezia, il libro è da mesi in testa alle classifiche, quindi un pubblico molto diverso, il pubblico scandinavo. In Inghilterra stessa cosa, è uscito la settimana scorsa in Germania con una prima tiratura di 100.000 copie e anche lì è subito balzato in testa alle classifiche delle vendite. L'abbiamo venduto i diritti di traduzione in 45 paesi, in Asia, quasi dappertutto, in Sud America. Io ho partecipato personalmente, per esempio, nella primavera scorsa in Sud America, in vari paesi sudamericani, a degli incontri di presentazione dei libri e erano sempre affollatissimi. È veramente un successo planetario incredibile. Cioè, a noi quello che ci fa piacere, al di là del successo ovviamente dell'autrice, della casa editrice, è il fatto che un prodotto, diciamo così, un prodotto culturale italiano di qualità abbia successo dopo tanti anni nel mondo. Questo è molto importante perché io vedo negli Stati Uniti, in Francia, in Germania, vedo finalmente tanta gente, tanti stranieri che dicono: ah sì, l'Italia è anche nella letteratura, Napoli è anche nella letteratura e produce un'autrice di questo livello. Questo penso sia un motivo di orgoglio per noi italiani. Tra l'altro, sempre per tornare un po' al meccanismo di trasmissione di informazioni che è andato così bene per l'opera di Elena Ferrante, per raccontare ancora quello che è successo negli Stati Uniti nello show business, pare che Alexis Bledel, che è per tutti coloro che sono appassionati di serie americane, la Rory Gilmore, la figlia protagonista della serie Una mamma per amica, sembra che lo abbia a sua volta consigliato a Michelle Obama. Non sappiamo ancora se lo abbia letto, forse lo sa Michael Reynolds, che è il direttore editoriale di Europa Edition, la divisione statunitense di edizioni EO. Michael, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. Allora, australiano, non americano, giusto? Giusto. Infatti, ho letto bene, è stato per tanti anni anche in Italia, ma naturalmente noi vogliamo sapere tutto quello che accade negli Stati Uniti attorno a questo fenomeno italiano. Che cosa c'è di Elena Ferrante e della sua opera che viene così tanto apprezzata dal mercato statunitense? Qual è il segreto anche della distribuzione? Come mai siete stati in questa maniera, in questa misura, così capaci di propagare così bene quest'opera? Ma io posso aggiungere a ciò detto da Sandro Ferri che il ruolo che hanno giocato gli scrittori americani e anche i lettori, ovviamente gli scrittori che hanno letto la Ferrante iniziando tanti anni fa con Alice Sebold, sono stati di gran sostegno a questa scrittrice. C'è stata una generosità di spirito da parte di questi scrittori e continua fino a oggi. Tanti scrittori seri, importanti sulla scena letteraria americana partono così bene della Ferrante e anche, devo dire, sono sempre ben disposti a partecipare ad esempio agli incontri sulla Ferrante, di parlare del loro amore, del loro apprezzamento di questa scrittrice. E questo è un elemento, penso, molto forte, soprattutto magari nell'assenza dell'autrice in questo caso. Infatti, il che contribuisce naturalmente a rendere ancora un po' più affascinante non solo i libri, tutta la figura, il mistero intorno alla scrittrice. Tra l'altro, queste scrittrici sono, oltre a essere grandi scrittori e scrittrici, sono anche lettori eccellenti, quindi danno un vero contributo alla conversazione intorno a Ferrante. Questo è molto interessante, peraltro. Ci soffermeremo adesso, magari prima vi faccio sentire un altro contributo, poi andiamo in pausa, ma vorrei anche fare un ragionamento con Ferri e Reynolds proprio su quello che nei suoi libri racconta Elena Ferrante, perché l'ambientazione è Napoli degli anni 50 e 60, con queste due protagoniste che poi vengono seguite nella loro amicizia e in tutto il loro percorso di crescita. Sono Elena Greco, Raffaella Cerullo, due amiche appunto di cui si racconta la storia in questa tetralogia. Ma il fatto di raccontare Napoli in un momento storico così particolare, ci chiediamo come possa interessare ed incuriosire così tanto gli americani, magari proprio anche per tutti gli italiani da Napoli che da quel periodo si sono trasferiti negli Stati Uniti. Probabilmente ci sarà anche una fetta di lettori che arrivano appunto dall'Italia e che si sono insediati appunto negli Stati Uniti. Però siccome nei giorni scorsi, lo ricorderete, abbiamo avuto modo di raccogliere anche da parte degli ascoltatori tante contestazioni per il fenomeno Gomorra e la serie che è sbarcata negli Stati Uniti proprio la settimana scorsa, perché molti dicevano ma perché raccontare Napoli in quel modo, e invece, come vedete, c'è questo grande interesse attorno a Napoli in ogni sua forma, questa grande nostra città si possa esprimere anche attraverso l'opera di Elena Ferrante. Allora, che cosa facciamo? Possiamo mandare il traffico? Sei già pronto, Paolo? Direi di farlo subito, poi vi farò sentire una breve intervista fatta un bel po' di tempo fa dalla nostra Alessandra Tedesco ad un'altra grande sostenitrice dell'opera di Elena Ferrante. Non vi dico chi è, l'ascoltiamo tra pochissimo. Ma cos'è quest'estate? I definitely read The Solitude of Colors, of Numbers, and I thought it was just wonderful. Ho letto La solitudine dei numeri primi di Giordano e l'ho trovato un libro splendido. L'ho amato. Aggiungo che una delle scrittrici più importanti per la mia formazione in questo momento è l'italiana Elena Ferrante. Sono colpita da quello che fa. Questa dichiarazione l'aveva rilasciata un bel po' di tempo fa la nostra Alessandra Tedesco, Elizabeth Strauss, che è stata premio Pulitzer per la narrativa nel 2009. Michael Reynolds, mi sembra un endorsement abbastanza rilevante. Sì, è come quelli della Strauss, sono tanti. Devo dire che la Strauss ha sempre dato un gran sostegno alla Ferrante, è un gran fan. Allora, che cosa apprezza il lettore americano dell'opera di Elena Ferrante? L'ambientazione, il fascino italiano, che cosa c'è? La modalità, il linguaggio, la storia. Michael, ce lo vuoi raccontare ancora un po' più nel dettaglio? Insomma, quali sono le impressioni che raccogliete anche quando fate le vostre presentazioni, immagino, nelle librerie, pur nell'assenza della scrittrice? Sì, penso che l'ambientazione sia affascinante anche per i lettori americani, però vedo, cioè, Napoli messo, diciamo, un fascino anche per gli italiani, in qualche modo simile a quello che ha per gli americani. Al centro di questi libri ci sono due personaggi femminili molto forti e molto complessi, e penso che questa abbia un peso importante nel successo della Ferrante, e anche per questi attori e attrici. Non capitano ogni giorno personaggi femminili così complicate, così forti. E penso, per un attore e un'attrice brava, è ovviamente affascinante l'idea, certo, di recitare personaggi, certo, così. Sandro Ferri, forse vale la pena anche soffermarsi sul tema. Allora, dicevamo prima intanto il tema napoletano. Io ho fatto il parallelo con l'uscita di Gomorra negli Stati Uniti la settimana scorsa, perché mi avevano molto colpito le varie considerazioni, appunto, da parte degli ascoltatori che venivano fuori rispetto a quel modello che Gomorra consegna chiaramente agli Stati Uniti, come se tutti dovessero immaginare che l'Italia rappresenta solo da una serie televisiva in cui si racconta, appunto, di Camorra, eccetera. Qua invece riportiamo Napoli negli Stati Uniti con una dimensione, un'immagine completamente diversa. Questo parallelo un po' curioso, però insomma mi sento di doverlo fare proprio per le considerazioni molto diverse che sono emerse. Ferri? No, senz'altro il parallelo in questo caso ci sta benissimo. Napoli è una città, lo sappiamo bene, in Italia molto ricca e complessa, è un emblema di cose positive, di cose negative, è un laboratorio delle classi sociali, dell'ascesa sociale, della cultura e però anche dell'ignoranza, anche sulla questione femminile, dell'emancipazione femminile. Sono tutti temi che la Ferrante mette al centro dei suoi romanzi, e sicuramente Napoli da questo punto di vista è un'ispirazione grandissima. È una città, viene ricordato sempre, ma è vero, è una città piena di conflitti, però è anche una città piena anche di stimoli. E io penso che il pubblico, appunto, internazionale, addirittura, appunto, le dicevo prima, nei paesi scandinavi, riesce ad andare oltre, se vogliamo, questa cornice che non è solo una cornice, è il fondo della storia, cioè questa cornice, però è anche una cornice napoletana. E non proprio, per come la racconta la Ferrante, non fermarsi a una lettura, diciamo, non so, antropologica, un po' esotica, no? Ma proprio in virtù dell'importanza, della forza, dell'autenticità dei problemi che vengono raccontati, delle storie delle persone che vengono raccontate, diventa universale. Questo è un libro che ha dimostrato che ha un'accoglienza universale, cioè piace in tutto il mondo. Quindi ecco, penso che questo spiega anche queste cose su Napoli, diciamo. Ferri, il racconto a me è stata regalata l'amica geniale da un'amica che evidentemente ha avuto questa genialata di regalarmelo con questo presupposto. Mi disse: io ho fatto al termine della lettura dei quattro libri mi sono sentita in crisi di astinenza. E le metto insieme anche un altro commento che ci fa un'ascoltatrice che dice: anch'io li ho letti tutti e quattro, ho fatto veramente un'indigestione, magari per il quinto aspetterò ancora un po'. Crea effettivamente, a quanto pare, una percezione diffusa dipendenza l'opera, almeno la tetralogia dell'amica geniale, appunto, di Elena Ferrante. Quindi questo volevo condividere con lei. La storia della pubblicazione, appunto, dei libri di Elena Ferrante è una ottima storia anche per quello che riguarda, Sandro Ferri, il mondo dell'editoria indipendente. Sì, sì, perché noi continuiamo a essere un editore indipendente che esiste da oltre 30 anni in Italia, da 10 anni negli Stati Uniti, però ecco, grazie ai nostri autori, a Elena Ferrante in particolare, negli ultimi anni siamo potuti crescere molto. È emblematica perché penso che è emblematico il tipo di rapporto che un editore indipendente ha con l'autrice, in questo caso, no? È un rapporto, il caso della Ferrante proprio lo spiega benissimo, che nasce tantissimi anni fa, nel 91 addirittura, nel 1991, quando Elena Ferrante ci mandò questo manoscritto e noi decidemmo di pubblicarlo, nonostante lei fin da allora ci avvisò: guardate, però io non farò presentazioni, non voglio apparire, eccetera eccetera, quindi se vi piace il libro pubblicatelo. Noi l'abbiamo pubblicato, per tanti anni abbiamo insistito. E all'inizio il successo era molto minore, però la costanza, perché l'editore indipendente è un artigiano, quindi lavora sul prodotto, cura i libri che fa, la cosa che gli interessa di più è la qualità dei propri libri. Ecco, in questo caso noi abbiamo creduto in questa autrice, l'abbiamo sostenuta, quindi abbiamo consentito che crescesse a livello mondiale. Ecco, la storia, diciamo, in questo caso è questa, cioè come un editore indipendente può far crescere un autore, un'autrice a livelli di successo internazionale semplicemente attraverso la costanza, la fede nel lavoro, nella qualità della scrittura, nel certo, fatto che i libri sono buoni. Ferri, solamente 30 secondi di tempo dedicati invece alla Frantumaglia, che esce oggi, che non è il quinto libro della raccolta attorno all'amica geniale, ma è un altro lavoro. Sì. La Frantumaglia è una raccolta di testi di Elena Ferrante, anche recenti. Ci sono delle lettere, ci sono delle interviste, ci sono dei piccoli saggi o delle cose che lei ha scritto in questi anni. Ma la cosa il principale è che questo è un libro che può piacere moltissimo a chi ama i romanzi di Elena Ferrante, perché spiega la genesi di questi romanzi, spiega cosa c'è dietro, spiega come lei racconta, come lei scrive, cos'è il suo laboratorio di scrittura, come nascono i suoi personaggi, le sue storie, le sue idee. Quindi è un libro prezioso che si legge, lo dico con tutta la sincerità, è un libro assolutamente appassionante, nonostante non sia un romanzo, è un libro, come diceva Daniel Pennacca, come un romanzo. Sandro Ferri, prima di salutarla, un'ultima domanda gliela devo fare per forza. Dietro ad Elena Ferrante c'è lei con sua moglie? Siete voi Elena Ferrante? No, non saremmo veramente capaci. Cioè, Elena Ferrante, chi ha letto i suoi libri può vedere benissimo che lì c'è una grande scrittrice. Ecco, chi fa l'editore difficilmente può dedicarsi così alla scrittura. Questi quattro libri ci hanno dietro almeno 5-6 anni di lavoro, i quattro, parlo dell'amica geniale, degli ultimi, di 5-6 anni di lavoro a tempo pieno, completo, di grandissimo lavoro. È impossibile pensare che delle persone occupatissime come noi, come editori, possano possono scrivere un romanzo del genere. E allora noi qua rimaniamo affascinati attorno a questo mistero. Nel frattempo leggiamo, continuiamo a leggere tutta l'opera di Elena Ferrante, grazie a Sandro Ferri, fondatore della casa editrice EOE, e a Michael Reynolds, che invece è il direttore editoriale di Europa Edition, la divisione statunitense di edizioni EOE. Gli ultimi due minuti di tempo ci siamo riservati perché, a sorpresa, a dimostrazione del fatto che il nostro pubblico, il pubblico di Radio 24, non solo è numericamente molto interessante, ma anche dal punto di vista qualitativo è estremamente interessante. Ha bussato alla nostra porta, o meglio ha composto l'800 24 00 24 per intervenire in diretta, un ascoltatore assolutamente illustre, Beppe Carletti dei Nomadi. Beppe, buongiorno. Buongiorno. E buongiorno, grazie per la sorpresa, perché naturalmente per la prima parte del programma ti sei sentito chiamato in causa, esatto, per le iniziative di solidarietà a favore delle popolazioni terremotate. Noi probabilmente nella nostra elencazione di iniziative ovviamente ne abbiamo lasciate indietro un po', ma tu ci tenevi a ricordare che ci hai messo la faccia direttamente in passato. Sì, io ho fatto una cosa insieme agli amici cantanti, perché da solo non si fa niente, e hanno partecipato tutti gli emiliani ai tempi del 25 giugno del 2012. Ho chiamato a raccolta tutti i ragazzi, ragazzi e ragazze, compresa Laura Pausini, e abbiamo fatto una cosa bellissima, ma lo dico solo per dire che non è il mio mestiere organizzare i concerti, quindi questo tipo di concerto, però io credo che è bello farsi vedere, è bello, si dice uno, diamo i soldi e non diciamo niente, no, sì è vero, però io mi ricordo un piccolo episodio che avvenne quando organizzai quel concerto lì a Bologna, che un cantante importante disse: io preferisco fare uno segno. I ragazzi del Modena City Rem hanno detto: ma noi non abbiamo i soldi per dare un assegno, noi preferiamo andare sul palco, esatto, farti vedere e stimolare la gente a dare. Noi abbiamo raccolto questo concerto, dico, 1.186.000 euro dati, ristrutturati due ali dell'ospedale di Carpi e di Mirandola, e in questo periodo ci sono delle persone che grazie a quel concerto lì possono farsi curare in questi due ospedali. Quindi direi che non solo gli organizzatori di professione possano farle, perché è il loro mestiere e giustamente vanno remunerati. Io, che non è il mio mestiere, non prendo niente. Certo, chi può dà quello che può, Beppe. Allora, poi dicevamo anche, se hai sentito tutta la trasmissione, abbiamo avuto proprio anche un po' l'impressione che Fiorello in questa sua dichiarazione estemporanea un pochino per la giacchetta ci sia stato tirato, anche se poi le sue riflessioni sono state anche abbastanza chiare. Detto questo, se un artista dà quello che può, magari può sganciare, come dicevi giustamente tu, un certo assegno, mettendoci la faccia con un concerto che ama raccolta migliaia di persone, il denaro che si tira su è di importo molto diverso e si può fare qualcosa di molto più importante. Grazie molte Beppe, con affetto, grazie per averci chiamato. Giornata, grazie per averci chiamato. Noi abbiamo terminato, ma torniamo qua domani mattina alle 8:15. Buona giornata.